The other. Yes. Coasting in 10 times the speed of light. Our captain is none of them just coming to bed. And who am I? Yeah. Little something called the Joss. The Joss, Joss. Well, easy rider, fluid less, stingy pun tempo. Coca-Cola, sai cosa bevi? Continua a far discutere l'adesione dell'undicesimo municipio di Roma alla campagna internazionale di boicottaggio dei prodotti Coca-Cola. Ieri nella sala consigliare la questione è tornata alla ribalta in un interessante confronto tra il sindacato colombiano Sinal Trainal e la Coca-Cola & Company Italia. La multinazionale è sotto accusa per l'atteggiamento antisindacale manifestato nei suoi stabilimenti in Colombia. Inoltre il Sinal Trainal ritiene che la Coca-Cola utilizzi gli squadroni della morte dei paramilitari per reprimere il sindacato. Ieri Edgar Paez Melo, responsabile delle relazioni internazionali del Sinal Trainal, ha portato la sua testimonianza. Io quiero mencionar varios de los casos por los cuales se ha iniciado esta campaña. Voglio menzionare alcuni dei casi per i quali si è iniziata questa campagna. Nel 1990 fu assassinato Avelino Achicanoy Erazo nel municipio di Pasto. Nel 1990 è stato ucciso Avelino Achicanoy nel municipio di Pasto. Nos encontrábamos negociando un pliego de peticiones con la compañía Coca-Cola. Ci trovavamo in quel momento negoziando una vertenza con la compagnia Coca-Cola. El 8 de abril del 94 fue muerto José Eleazar Mango, cuando igualmente estábamos negociando con la compañía. El 8 de abril del 94 fue ucciso José Eleazar Marco, exactamente igualmente mientras estábamos negociando una vertenza. Entre el año 94 y el año 96, entre el año 94 y el año 96, fueron asesinados los siguientes trabajadores de la planta de Carepa en el Levante Oqueño. Fueron uccisi questi lavoratori nell'impianto di Carepa in Antioquia. Luis Enrique Giraldo. Luis Enrique Giraldo. Luis Enrique Gómez Granado. Isidro Segundo Gil. Y Libardo Herrera. Estos compañeros fueron muertos. Questi compagni sono morti. Por grupos paramilitares. Uccisi da gruppi paramilitari. Pero queremos referenciar un caso que fue el más impactante, ya que fue asesinado Isidro Gil dentro de las instalaciones de la compañía. Registriamo un fatto che è più rappresentativo, dato il fatto che Isidro Segundo Gil fu ucciso dentro le installazioni. El 5 de diciembre del 96 a las 9 de la mañana el compañero fue asesinado dentro de las instalaciones de la planta. Il 5 dicembre del 1996 il compagno fu ucciso all'interno, alle 9 di mattina all'interno degli impianti della fabbrica. Hace tres meses realizamos en Colombia una huelga de hambre durante 12 días. Tre settimane fa abbiamo realizzato in Colombia uno sciopero della fame di 12 giorni. Esta huelga se realizó sola y exclusivamente para lograr que Coca-Cola se sentara con el sindicato a discutir el despido de unos trabajadores. Questo sciopero della fame si realizzò solamente con l'unico obiettivo di far sedere la Coca-Cola per discutere sul licenziamento di alcuni lavoratori. La risposta fu che non llegò una carta firmata por los grupos paramilitares del occidente del paese. La risposta fu che ci è arrivata una lettera a firma dei gruppi paramilitari dell'occidente del paese, donde nos dan 90 días para sacar toda la gente sin alternar, que son 700 compañeros aproximadamente. Dove ci dicono, ci danno un tempo di 90 giorni per togliere tutti i compagni di Sinal Trainal, che sono circa 700. Un elenco lunghissimo di sindacalisti assassinati, rapiti e torturati dai paramilitari, anche all'interno degli stabilimenti. Ma la Coca-Cola declina ogni responsabilità, come ha ribadito Nicola Raffa del Consiglio di Amministrazione Coca-Cola & Company Italia. Non è sicuramente piacevole stare qui sul banco dei deputati con un'azione di boicottaggio in corso che è conseguenza di accuse che noi riteniamo assolutamente infondate. Al tempo stesso riteniamo molto importante essere qui e mantenere aperto questo dialogo. Si citano tutta una serie di fatti che sono successi veramente, E poi però non c'è nessuna prova che questi fatti siano in qualche modo, in qualsiasi modo riconducibili a una responsabilità o di Coca-Cola Company o di FEMSA. Questa situazione drammatica di guerra civile è la situazione nella quale opera FEMSA in questo momento in Colombia. Per cui la priorità della società di imbottigliamento che opera in Colombia, in primo luogo, è quella di stabilire la sicurezza dei lavoratori. E allora anche qui citiamo dei fatti: i lavoratori più a rischio sono stati dotati di scorte armate, altri lavoratori a rischio sono stati dotati di cellulare con i quali potevano chiamare un allarme, sono stati erogati dei finanziamenti per consentire di adeguare gli impianti di sicurezza delle abitazioni. FEMSA ha rapporti in Colombia con 12 organizzazioni sindacali, delle quali Sinal Trainal è l'unica a rivolgere questo tipo di accuse. Terza considerazione, il brand. Il brand per Coca-Cola è il valore più importante, è la cosa più importante che noi abbiamo del mondo, molto più del famoso sciroppo, della famosa formula segreta. E secondo voi noi correremmo di mettere a rischio l'immagine di questo brand nel mondo per episodi di questo tipo? Ma la difesa della Coca-Cola non ha convinto amministratori e sindacato. Rosa Rinaldi, vicepresidente della provincia, si è detta insoddisfatta della risposta della multinazionale, colpevole perlomeno di non far nulla per proteggere i suoi dipendenti. Intanto la rete boicottaggio Coca-Cola ha consegnato a Raffa una petizione di 11.000 firme raccolte contro la multinazionale e l'undicesimo municipio ha ribadito la sua adesione alla campagna e ha chiesto spiegazioni e collaborazione alla Coca-Cola. Ai nostri microfoni il presidente Massimiliano Smeriglio. Noi siamo rimasti informalmente con Nicola Raffa di Coca-Cola Italia, aspettiamo entro sabato una sua risposta su una forma, una commissione, una visita congiunta. Se avremo una risposta positiva, noi andremo a spiegare questo all'Assemblea Nazionale della Rete del Nuovo Municipio sabato a Bologna. Se non avremo risposte positive, proporremo anche in quella sede moltiplicarsi di ordini del giorno su questo tema. Quindi andremo avanti su questa strada. Aumentano le partecipazioni alla solidarietà? Mi pare proprio di sì, siamo contenti di questo, ormai la cosa sta esplodendo, però noi non lo facciamo su un piano ideologico, abbiamo costruito un tavolo di contrattazione. Se avremo risposte positive, ma positive per i lavoratori colombiani, bene, e quindi cambieremo il nostro atteggiamento, altrimenti andremo avanti con la campagna di boicottaggio. Quest'anno in Colombia sono stati assassinati 49 sindacalisti e non si contano gli atti intimidatori nei confronti di quanti si avvicinano al sindacato. Le responsabilità della Coca-Cola sono testimoniate dall'inchiesta del Tribunale di Miami che si sta occupando della vicenda e da una commissione d'inchiesta indipendente organizzata da un consigliere comunale di New York. La multinazionale nega ogni coinvolgimento, distinguendo il suo operato da quello delle società di imbottigliamento. Ma negli stabilimenti Coca-Cola colombiani si continua a lavorare nella paura. Nel suo intervento conclusivo, Edgar Paez del Sinal Trainal ha rilanciato la battaglia del sindacato contro la Coca-Cola. Por lo tanto, aceptamos con gran gusto y colocamos a disposición lo que tenemos en Colombia. Qui accettiamo con piacere, mettiamo a disposizione quanto possiamo fare in Colombia. Para que no solamente una comisión verificadora de Italia, sino de cualquier parte del mundo vaya a Colombia y constate el genocidio sindical que está cometiendo. Perché una commissione italiana, ma anche del resto del mondo, possa verificare qual è il livello del genocidio contro il movimento sindacale in Colombia. Y en especial hacer mucha claridad y que ustedes a viva voz puedan ver lo que pasa en la multinacional Coca-Cola en nuestro país. E che si possa fare luce e che tutti quanti possiate vedere quello che succede nella Coca-Cola in Colombia. Nosotros, como les decía, creemos que la campaña a partir de la aprobación de la participación del Distrito 11 cambia su dinámica. Come vi dicevo, noi siamo convinti che la campagna a partire dall'adesione del municipio, dell'undicesimo municipio, y seguramente scusate, cambia, prende una, compie un cambiamento, prende una nuova strada. Seguramente muchos más hombres, mujeres, distritos, departamentos entrarán a esta justa lucha por la vida y por la paz en Colombia. Sicuramente molti più uomini e donne, municipi, distretti, regioni, dipartimenti entreranno in questa giusta lotta per la vita in Colombia. With my tune able to chain, noontime tune in, scruffing on the kitchen and no fish to fry. Will you please do kind, sir? Pick out those ice, ain't off too sharp, well, protein.